a Via Bombicci, dove tra l'altro non è neanche così difficile arrivare, perché basta prendere la metro, scendere alla stazione della metro B di Pietralata. Lì o si fa una passeggiata di 10 minuti oppure si prende il primo autobus che percorre via di Pietralata, e a un certo punto vedrete i nostri castelli, c'è una traversa, si chiama via Fabiani, che sbuca proprio su via Bombicci, quindi è molto molto facile. Poi se venite in macchina c'è anche il parcheggio, Ottava edizione della rassegna Agorà, teatro e musica alle radici, dal titolo Resistenze. A Largo Bombicci a Roma dal 14 al 29 settembre 2019, un saluto e un ringraziamento ad una delle curatrici, Chiara Casarico, della compagnia teatrale Il Naufragar Me Dolce. Chiara, un abbraccio, in bocca al lupo, a risentirci presto. Grazie e crepi il lupo. Grazie, ciao. Con Chiara Crupi di Collatino Underground per presentare l'11ª edizione di Anomalie, la sperimentazione in periferia a Roma, Parco delle Canapiglie, dal 13 al 22 settembre 2019. Chiara, ben trovata. Buongiorno, buongiorno Federico. Ci racconti? Anomalie è un esperimento che appunto portiamo avanti con tutto il collettivo del Collatino Underground da 11 anni. E nasce in periferia, è proprio un progetto per le periferie, infatti la prima edizione ci ha visto montare un grande tendone da circo proprio a Rustica. Siamo passati poi attraverso Parco Mega, il quinto municipio, adesso invece ci troviamo nell'ottavo, ovvero proprio ai limiti, sotto il ponte del raccordo di Torre Maura. Infatti il Parco delle Canapiglie, per chi non lo conoscesse, è un enorme parco al nostro tendone che accede da Viale dei Cince. E che succede? Che appunto arriviamo un po' nei quartieri appunto di periferia dove c'è poco, proprio per questo andiamo un po' a sopperire il vuoto culturale ed istituzionale, appunto l'offerta che non ci manca spesso in tanti luoghi in città. Noi arriviamo proprio come un'anomalia in questi quartieri con un enorme tendone da circo, il nostro circo rosso dell'Hangar delle Arti, e oltre al tendone ci sono spettacoli dal pomeriggio alla sera, tutti completamente gratuiti e soprattutto in grado di, come dire, far divertire e stupire un pubblico di tutte le età. Quindi il cuore della manifestazione, cioè, è proprio il nuovo circo, quindi abbiamo comunque un'offerta di laboratori, workshop pomeridiani appunto gratuiti e dedicati alle arti circenti, quindi dalla... Ovviamente il nuovo circo non contempla animali, dobbiamo dire questa cosa, quindi assolutamente acrobazie, giocolerie, clownerie, arte di strada, peraltro messa in scena da bravissimi performer. Quindi appunto il pomeriggio laboratori gratuiti e workshop di queste arti che prima vi ho descritto. Invece la sera fatti spettacoli. Non solo circo, ma avremo anche del teatro e anche dei concerti musicali, oltre 10 giorni appunto dedicati proprio allo stupore. E devo dire, da organizzatrice, il nostro piacere, la nostra soddisfazione più grande è proprio vedere i bambini con i nonni, comunque le famiglie che scendono, portano le sedie da casa e aspettano questo evento proprio come se fosse un grande regalo che facciamo in questi quartieri e che devo dire dovrebbe essere poi lo spirito dell'estate romana. Quanti saranno gli eventi in programma? Noi abbiamo 10 giorni di programmazione, quindi dal 13 al 22 di settembre. Beh, appunto come ho detto, si parte proprio da Parco Circo, quindi velocemente vi parlo del Cabaret Bipolar, che il 13 settembre è il festival, il 15 settembre è direttamente dalla Toscana all'Escuchers con Brava Carletta. Abbiamo poi ancora la compagnia Pane Circo, che presenta la sua ultima produzione con The Flow di Slava, cioè, parliamo di acrobatica aerea, equilibrismo, giocoleria, interazione con il pubblico, tante clownerie. Poi abbiamo il Trio Surro il 19 e ancora le Cubes Festival, i fantastici, le Circus Polis, direttamente dalla Patagonia. Invece poi, per quanto riguarda il teatro, abbiamo il 14, sabato 14, Ivan Talarico, in Solo Poesie, che appunto questo teatro è un reading del grande e geniale, mi permetto di dire, Ivan, che appunto presenta per la prima volta a Roma il reading Solo Poesie. E poi avremo Alessandra Magrini con Roma e Femmina, è uno spettacolo di teatro canzone che va un po' a rivivere gli archetipi femminili della romanità. Tutto questo avviene il 18 di settembre. E poi abbiamo Fearless della compagnia Valdrada, ovvero regia e interpretazione di Chiara Pecchimanchi, quindi parliamo di stand-up comedy per far ridere sempre lì, andando un po' a scardinare quello che è l'archetipo e le varie credenze della, tra uomini e donne. E chiudo con i due appuntamenti invece musicali. Abbiamo il concerto del Ponentino Trio, che tutti noi penso conosciamo, con Roma Rosetti e il Ponentino, il 17 settembre, mentre precede il 16 settembre un concerto molto interessante, che è quello di Butta Vitto Riciclato, cioè praticamente utilizzano tutti gli strumenti che loro si autocostruiscono e che prendono proprio dalla discarica, quindi è un concerto veramente emozionante. E comunque tutto il programma lo trovate sia su Facebook, nella pagina di Anomalie, che sul sito anomalie.com. Ricordiamo l'11ª edizione a Roma al Parco delle Canapiglie dal 13 al 22 settembre. Un saluto e un ringraziamento a Chiara Gruppi di Collatino Underground. Un abbraccio, in bocca al lupo e a presto. Grazie, viva il lupo, grazie a Federico e a tutti voi. Vi aspettiamo. Con Stefano Maria Palmitezza, che cura la direzione artistica del Festival Il Teatro Che Non C'era, a Roma, al Teatro Studio Keiros, a partire dal 13 settembre 2019. Stefano, ben trovato. Buonasera. Ci racconti un po'? Questo festival nasce da un'idea della direttrice del Teatro Keiros, perché avevamo sempre in mente da tempo di ricordare Daniele Valmaggi, che è il Teatro Keiros, insieme appunto a Sabine Frantellizzi, che è appunto la direttrice, lo ha fondato. Quindi ci eravamo sempre detti prima o poi dobbiamo ricordarlo, perché Daniele Valmaggi è stato un grande artista, un grande attore e quindi un regista anche. E quindi per questo ci siamo poi alla fine decisi, quando abbiamo trovato la possibilità di poterlo fare. Quindi questo festival, Il Teatro Che Non C'era, ha come scopo principale quello di presentare degli spettacoli che abbiano un valore non solo di contenuti, ma anche estetico, perché pensiamo che, io stesso penso che sono appunto il direttore artistico del festival, che il momento attuale culturale che sta attraversando l'Italia, in particolare nel teatro, ormai quasi rifiuta la parte estetica degli allestimenti, e invece io ritengo che la parte della musica, la parte dei costumi, la parte delle luci, la parte dei trucchi e quant'altro sono momenti altrettanto importanti nella organizzazione di un evento culturale come è uno spettacolo teatrale. Quindi io ho selezionato un bel folto gruppo di artisti che avessero questo tipo, questa matrice nella loro estetica. Quindi questo è il primo motivo. Il secondo motivo è quello di raccogliere appunto intorno al festival questo bisogno di sentimento. Io, proprio leggendo una poesia della Merini, che appunto poi è il titolo di una poesia della Merini, mi sorpresi un po' di tempo fa a dire: ma sì, effettivamente io ho bisogno di sentimenti. Ormai abbiamo veramente tutti un grande bisogno di sentimenti, e questo è stato il tema che ha informato il sottotitolo, diciamo, della rassegna. Il Teatro Che Non C'era è perché speriamo, naturalmente, che queste proposte di noi teatranti siano effettivamente un contributo a qualche cosa che non c'era, e non la solita commediola, così con i tradimenti e le stupidaggini che purtroppo imperversano nei teatri di tutta Italia. Un festival che dura tutta una stagione, giusto? Sì, il festival dura tutta una stagione, quindi in pratica comincia il primo allestimento, che poi tra l'altro è un testo ed una regia che sono mie, ed è una donna fantasiosa, un manattologo, che apre appunto la rassegna. Comincia il 13 di settembre, poi c'è tutta una sequenza di altri spettacoli fino al giugno del 2020. E dico soltanto i titoli: c'è Caos di Donna, da Luigi Pirandello, di Salvo Miralla, poi abbiamo il Vino Campana, il più lungo giorno, di Monica Giovinazzi, poi abbiamo A piede libero, che è il teatro dei piedi, di Laura Kiedel, poi abbiamo Il neonato refrattario, di Alida Castagna, e questo è anche per questo c'è la mia regia, I Don't Care, di Pierluigi Bevilacqua, poi abbiamo Bucefalo e Il Bugiratore, di Alessio Di Cambio, Io senza te, tu senza me, di Mariangela Petruzzelli, L'Amleto, di Daniele Scattina, da William Shakespeare, Sadly Again, Au, di Inaria Soinila e Alice Muzzioli, e poi abbiamo Brasserie, di Coffi Caulé, poi abbiamo, per la regia di Bergamaschi, I Calabranzi di Harold Pinter, per la regia di Alessandro Cau, e Il Viaggio di Marco Serra, il Viaggio di Marco Serra, che è, appunto, conclude la rassegna. Ogni spettacolo avrà una data unica o una tenuta? Guarda, ci sono alcuni spettacoli che sono one shot, quindi si esauriscono la sera, un'unica serata. Alcuni invece durano addirittura una settimana, quindi abbiamo lasciato liberi tutti quanti gli artisti di potersi esprimere nella lunghezza che ritenevano più utile alle loro possibilità. Per maggiori informazioni e dettagli ci dai dei riferimenti internet? Gli estremi del Kairos, che penso sia la cosa più utile, lì i nostri ascoltatori potranno naturalmente ricavare i numeri per poter eventualmente, lo desiderassero, prenotarsi. Il teatro è abbastanza piccolo, quindi io consiglio di farlo, se decidono, al più presto. Quindi le prenotazioni sono al telefono 06 44 23 80 26 oppure 340 54 68 099, e ti do l'email, che è teatrokairos@gmail.com, e quindi ti ricordo che sono tutti quelli che ho appena elencato, sono appunto relativi al Teatro Kairos, che si trova in via Padova 38A, posto comodissimo da raggiungere perché c'è la metro B a Piazza Bologna, quindi siamo a un passo. Festival Il Teatro Che Non C'era, a Roma, al Teatro Studio Kairos, dal 13 settembre 2019. Un saluto e un ringraziamento al direttore artistico Stefano Maria Palmitessa. Stefano, un abbraccio, un in bocca al lupo, a risentirci presto. Grazie, Crepi, a risentirci presto. Con Arturo Di Corinto, per parlare del suo libro Riprendiamoci la Rete, piccolo manuale di autodifesa digitale per giovani generazioni, e il videogame educativo basato sul libro Cyber Hunters. Tutto questo è l'Incampus University di Roma, martedì 17 settembre 2019. Arturo, ben trovato. Ben trovati a voi, grazie. Ci racconti un po' di queste due creature? Ma guarda, il tema qui è uno solo principale, cioè il rapporto tra la privacy, quindi la tutela dei nostri dati personali, quei dati che identificano dei comportamenti singolari, collettivi, sociali, e la tutela di questi dati personali attraverso la sicurezza informatica. Quindi quello che io provo a spiegare è che la privacy è l'altra faccia della cyber security. Quindi è un modo per pensare la sicurezza informatica non come una cosa algida da programmatori, ingegneri, agenzie di sicurezza nazionale e poliziotti, ma come una maniera per tutelare i diritti fondamentali degli individui, quindi il diritto ad esempio alla riservatezza, il diritto alla privatezza, come lo chiamava il compianto Stefano Rodotà. Com'è possibile questo? Intanto io ho fatto da tempo una scelta che è quella di staccarmi da tutti i social, tranne uno che è Twitter, per monitorare alcuni comportamenti. Io ho buttato il mio account su Facebook, ho congelato il mio account su LinkedIn, ho frizzato, si dice in gergo, Instagram, non uso WhatsApp, ho buttato le notifiche del telefonino e così via. La prima cosa che bisognerebbe fare intanto è smettere di fare questo gioco da ragazzi stupidi e poco cresciuti sui social, questo gioco di rimandi, di appuntamenti, perché queste piattaforme tecnologiche che noi utilizziamo apparentemente in maniera gratuita le paghiamo appunto con i nostri dati personali. I nostri dati personali vengono interpretati grazie alle scienze sociali e utilizzati per manipolare e indirizzare i nostri comportamenti. Ormai dovrebbe essere una nozione, come dire, acquisita da tutti quanti, che la Brexit e le elezioni di Trump sono state pilotate anche grazie a questi social. Certo, in una maniera un po' diversa da quella che la vulgata comune, nel senso che non è che Facebook ha portato gli americani a votare Trump, quanto piuttosto, ci dicono gli studi, hanno scoraggiato gli afroamericani democratici a votare per Hillary Clinton. Quindi, insomma, è questa logica, questa strategia che parte dal profiling, cioè dalla profilazione delle emozioni, dei sentimenti, delle scelte delle persone che fanno sui social, fino alla creazione di dark advertising, cioè di pubblicità mirate di tipo sia commerciale che politico per portare le persone a fare certe scelte, il cerchio si chiude in questo modo. Io so chi sei tu grazie alla profilazione comportamentale che ricavo dai dati che lasci in rete, e se so chi sei tu, so cosa posso offrirti che tu non puoi rifiutare, e quindi farti cliccare proprio lì sopra, ricordandoci però una cosa, che nel caso degli acquisti commerciali, su internet, ormai sul web, il ciclo è molto breve, perché una volta tu dovevi guardare la televisione con la donna seminuda allungata sulla Jaguar per identificarti col possessore dell'automobile e avere successo sessuale. Oggi invece vedi la pubblicità sul web, clicchi, compri e paghi, cioè è finita lì, e si è accorciata proprio la catena, quindi se si è capace di trasferire questo discorso ad altri domini della propria vita, ecco, dovrebbe essere chiaro di cosa stiamo parlando. Questa dei social è una nuova schiavitù, e quindi questa è una cosa che racconto. Volevo chiederti anche rispetto ai social cosiddetti alternativi, penso a Mastodon ad esempio, a Bologna, dall'esperienza bolognese. I social network alternativi hanno avuto un ruolo importante in alcune situazioni, penso a quello che è successo con Podemos 2015 all'incirca, diciamo un movimento molto ampio da cui scaturì Podemos, utilizzò alcuni social network autogestiti e auto-organizzati. Noi social network autogestiti e auto-organizzati ce l'abbiamo già, sono i centri sociali italiani, cioè magari dovremmo evitare di farli sgomberare quelli, come è accaduto al mercato a Bologna. Quindi prima di pensare a Mantova, penso a un posto fisico dove la gente si riunisce, si guarda in faccia, si tocca, si bacia, si ama, mangia insieme, perché in realtà poi le cose importanti della vita sono queste. Queste fregnacce, questo gioco a rimpiattino, io ti clicco, tu mi like, io ti follow, eccetera, questo gioco da bambini un po' stupidi, ecco, a che serve, a chi serve? Ma c'è qualcuno che ha mai dimostrato che le persone che fanno politica attraverso i social riescono a ottenere un cambiamento? Non c'è nessuno, ci sono le grandi agenzie che riescono a fare questo, le grandi agenzie ben foraggiate, con degli esperti ben pagati, magari da qualche miliardario pedofilo come Epstein. Allora, in quei casi lì forse si riesce a modificare un cambiamento, ma ci sono strateghi, agenzie di comunicazione miliardarie, non noi singoli che pensiamo con il nostro click, con il nostro commento caustico, satirico, di condizionare una vita che è condizionata dagli altri, ed è condizionata dagli altri proprio perché siamo finiti dentro questo buco nero dei social, ma noi non condizioniamo proprio niente. E la stessa cosa per cui le persone credono alle fake news, altro argomento che c'è nel libro, cioè credono alle fake news perché sono essi stessi produttori di fake news, cioè sono le persone normali come noi che producono le bugie, che vogliono credere alle bugie perché conviene, credere alle bugie conviene, del motivo per cui non esisterà mai una legge o un modello di debunking e fact checking, come dicono i professoroni, che riuscirà a liberarsi dalle fake news. La democrazia, diceva Rossana Rostanda, fondatrice del Manifesto, è un lavoro lento, lungo, colto e difficile. Non siamo, questo lo aggiungo io, non siamo tutti capaci di farlo, ma ci dobbiamo impegnare tutti a farlo. E non si realizza la democrazia attraverso i social. È una fregnaccia, è roba che non controlliamo, è roba fatta oltreoceano, da persone che hanno un'altra cultura, che hanno una loro logica, che ragionano in base agli affari, che devono accontentare gli azionisti. Questo bisogna capire, questo spiego nel libro e quindi fornisco qualche suggerimento. Ad esempio, cerchiamo di non usare Google, piuttosto usiamo un altro motore di ricerca che si chiama Quant, che è la crasi di Quantity Wanted, un motore di ricerca europeo scritto da francesi, qualche tedesco e qualche italiano, che insomma mantiene un atteggiamento diverso rispetto alla nostra privacy, cioè non raccoglie, non mette da parte le nostre ricerche su questo motore di ricerca per darle a qualche investitore pubblicitario. Lo stesso indico di usare Signal, che è una app di messaggistica cifrata che serve sia per mandarsi messaggi segreti che per fare telefonate che non siano intercettabili. Quindi usare Signal anziché usare WhatsApp. Perché? Perché Signal è creato da degli sviluppatori anarco-libertari e comunisti democratici che stanno ai quattro angoli del pianeta e che come modello di business hanno le donazioni. Quindi Signal non regala agli investitori pubblicitari i dati di chi utilizza la loro app, perché non ne ha bisogno, non ha bisogno di vendere questi dati. Utilizza le donazioni che vengono dalla Electronic Frontier Foundation e dall'Associazione per i diritti civili americana, fino a singole donazioni private di gente normale come noi. Quindi Signal è fatta appunto da Moxie Marley Spike, una persona ben conosciuta nel giro degli informatici, direi dei centri sociali, comunque degli hack club, degli hack beating, eccetera, eccetera. Poi, insomma, consiglio di fare attenzione a usare, insomma, a dare i propri dati personali, soprattutto per i più giovani, perché guardate che mentre Facebook è diventata una cosa da vecchi, non so se ve ne siete accorti, se Twitter è una cosa un po' da giornalisti, da politici, se Instagram è una roba da narcisisti frustrati, ormai c'è TikTok, un'applicazione cinese che i nostri giovani usano, le altre non le usano, quindi quello che provo a dire, dice volete usare TikTok, ma usatela pure, però fate attenzione e ricordo che c'è un elemento molto brutto che ormai tutte le agenzie di intelligence, governative, commerciali, quelli che trafficano con i nostri dati, che decidono in base ai nostri dati dove posizionare i negozi in città, stanno cominciando a raccogliere i dati personali sull'orientamento sessuale e di genere delle persone. Mm-hmm. Ed è una cosa gravissima questa, perché questo significa categorizzare le persone. Se tu categorizzi le persone, sai che cosa gli puoi offrire e cosa gli puoi far fare, e sai anche se le puoi ricattare oppure no. Mm-hmm. Questo è uno dei motivi per cui, ad esempio, gli americani hanno obbligato il social network sessuale Grindr a essere rivenduto, perché era diventato di proprietà cinese e dentro c'erano i dati sessuali dei funzionari governativi americani, e grazie a questa app era possibile geolocalizzarsi, sapere dove lavoravano, con chi, per quanto tempo, e quindi esporre i segreti di Stato, insomma, a eventuali curiosi cinesi proprietari di quella app. Queste cose provo a raccontare nel libro. Ecco, e per saperne di più in rete dove si può cercare rispetto al tuo manuale? Ma intanto il mio manuale io ho chiesto all'università di regalarlo a tutti, cioè di metterlo in rete in digitale, perché poi

poi mi segnalano che al Teatro dei Servi, contro Z, indietro di una mossa, una commedia brillante, sarà in scena il 17-18 settembre, quindi questa sera e domani al Teatro dei Servi, nell'ambito della rassegna Roma Comic Off, ispirato alle commedie fantasy degli anni 80 e ai più recenti successi di Netflix. E quindi si tratta di un viaggio tra varie dimensioni, cercando di modificare la realtà a proprio vantaggio, però chiaramente in chiave brillante, e si tratta di un lavoro scritto e diretto da Annabella Calabrese e Daniele Esposito. Questo per dare un po' di spazio ogni tanto alla commedia. Poi andiamo a vedere anche due informazioni di Anomalie, che questa settimana fino al 22 settembre, ingresso gratuito, sarà in vari spazi, diciamo nel quadrante est della città di Roma, e si tratta di un festival interamente dedicato al nuovo circo, musica, teatro sperimentale, insomma molto sperimentale, e soprattutto appunto però ciò che riguarda il circo. Quindi questa è una settimana molto piena, e io segnalo sicuramente Alessandra Magrini, ti ricordi la nostra attrice contro? Roma è femmina, il 18 settembre, domani. Poi insomma forse andrei a segnalare anche il 21 settembre la compagnia Valdrada in Fearless, diretto da Chiara Becchimanzi. Questo diciamo un po' per dare un paio di informazioni anche su Anomalie, questo pezzo di giovani e equilibrismo. Sappiamo che c'è stata ieri mattina la conferenza stampa di Roma Europa Festival, e ne parleremo tanto in questo prossimo periodo. Già questa settimana aprirà le danze del festival con ben due lavori. Si tratta di Furia di Lia Rodriguez, che sarà all'Auditorium Parco della Musica questa sera fino alla 19, e poi al Teatro Argentina nel weekend, ma a partire da domani, dal 18 fino al 20, ci sarà Xenos di Akram Khan. Quindi questo è un po' quello che Roma Europa Festival ha deciso di presentare per la sua apertura, ma tanto ne parleremo. E si tratta di un festival che proseguirà fino alla fine di novembre, e sarà in vari spazi della città più o meno teatrali. Appunto già qui abbiamo due spazi diversi, due fra i maggiori spazi romani, appunto l'Auditorium e il Teatro Argentina. Andando a vedere un po' comunque i due spettacoli di danza con cui si aprono appunto le danze, e va bene, l'ho detta, non... ok. Furia, della coreografa brasiliana Lia Rodriguez, riflette sulla natura di un gruppo di individui che si confrontano con la loro solitudine e con la loro carne. Si tratta di una musica, una danza energica selvaggia che si coniuga con la musica rituale della Nuova Caledonia. Vedi un po', quindi è un lavoro diciamo che ha a che vedere con l'espressività più pura, primordiale probabilmente dei corpi. Invece l'ultima produzione di Akram Khan, Xenos, è una commissione di Katak danza contemporanea con le musiche di Vincenzo Lavagna, che saranno in scena con 5 elementi, ed è l'evocazione di lotte di un soldato coloniale durante la Prima Guerra Mondiale. Akram Khan sarà in scena, il coreografo anglo-benganese, presumibilmente per l'ultima volta in una coreografia di lunga durata, così è stato presentato. Quindi la condizione umana in qualche modo viene incarnata nella figura di questo danzatore, che diviene un po' strumento di guerra, no? Il soldato è un po' una pistola umana in qualche modo vista dai generali. Quindi così comincerà il nostro Roma Europa Festival, e direi che anche più avanti appunto ne parleremo. Poi riprende la stagione anche del Teatro Quarticciolo, con una sorta di coda della stagione precedente, perché sappiamo che Quarticciolo vive le proprie stagioni su bando, e lo vive ad anno solare la propria stagione. e il primo spettacolo con cui si riapre la stagione del Teatro Quarticciolo sarà domenica prossima alle ore 18 con un lavoro di 10 anni fa, ovvero sia Sì, l'amore no, di Frosini Timpano, che tornano in scena 10 anni dopo con lo spettacolo che in qualche modo ha segnato anche il loro anniversario di nozze, in qualche modo, perché lo spettacolo nasce in virtù del fatto che i due artisti si sono anche sposati tra di loro e quindi insomma festeggiano contemporaneamente il decennale dello spettacolo e il loro anniversario dei 10 anni di matrimonio. E si tratta di una storia d'amore che, se non sbaglio, abbiamo anche... Sì, abbiamo un piccolo estratto. Tanto tempo fa, vero? Sì, sì, sì. Mi è tornato in mente un momento lì. E insomma, sì, tutto visto in chiave anche pop, con dei materiali particolari in cui Daniele Timpano e Elvira Frosini con cui si confrontano e che discutono un po' l'amore come visto nell'immaginario collettivo. Quindi domenica 22 settembre ore 18 al Teatro Quarticciolo per Sì, l'amore no. Segue una delle ultime cose che ti posso dire. Prima di tutto ti direi che possiamo andare anche allo Spazio Diamante in questa settimana, perché dal 20 settembre inizia il Festival In Divenire, che andrà avanti fino al 12 ottobre, con la direzione artistica di Giampiero Ciccio. E questa apertura, appunto, dal 20 settembre di In Divenire, intanto ecco, c'è una serata di apertura in cui il festival viene presentato. E poi ci sarà la sezione teatro per diciamo, il concorso In Divenire, che già da domenica presenterà alcuni lavori. Si comincerà con 3 lavori proposti domenica dalle 19.30 in poi: Le Mosche con Abella Ambriana, Versus con Faust e il gruppo I Poeti Estinti con Onore Clandestino. Il 23, che è lunedì, e noi non ci sentiamo, e lunedì verranno presentati altri 2 lavori dalle ore 20. Il Vampa della compagnia Inani Inani e Edip, senza la O, di Marichiolo Ragno, che non so se si tratti di un essere umano oppure un nome di gruppo. Questo per quanto riguarda In Divenire, lo Spazio Diamante, che quindi comincia anch'esso questa settimana. Poi ti vado a segnalare che al Teatro Valle, dal 19 settembre fino al 20 ottobre, c'è una mostra curata dal Teatro di Roma e ospitata appunto dallo Spazio Teatro Valle fino al 20 ottobre, dal 19 settembre, dedicata a William Kentridge, Beyond Triumphs and Laments. Per Eterno, William Kentridge presentano questo lavoro a ingresso libero, è un'iniziativa che vuole puntare i riflettori sul futuro dello spazio fluviale romano, però sia Piazza Tevere, il muraglione che ne ospita la celebre creazione, che è la celebre creazione di Kentridge, che in qualche modo fa luce sul Tevere. Ci saranno 80 figure alte fino a 10 metri, nel tratto fa Prontesista e Ponte Mazzini, che sono un progetto artistico installativo di Kentridge da far rivivere all'interno dello spazio del Teatro Valle. Quindi un'esperienza un po' particolare per andare a riflettere sul Tevere, su quello che è diventato e quello che può essere in futuro. Ma probabilmente però la settimana teatrale romana per gente come noi è al Teatro India, perché 20 anni in 20 ore dappertutto, Festa India, dalle 16 del 21 settembre alle 12 del 22 settembre. Sarà una 20 ore di festeggiamenti con tutti i protagonisti che in questi 20 anni sono passati al Teatro India. Ci saranno davvero tutti i rappresentanti del teatro passato a Roma in questi 20 anni, tutti i grandi protagonisti che poi sono diventati grandi, ma anche chi ha smesso, chi torna, chi adesso fa altro, tutto per festeggiare quella che è stata immaginata come la casa del teatro romano, che poi lo è diventata soltanto in alcuni momenti e non sempre, ma sempre, insomma, dal settembre 99 questa ex fabbrica abbandonata è stata in grado di trasmetterci emozioni. Ingresso gratuito e questo weekend impossibile non partecipare a questa meravigliosa festa, e io invito tutti perché sarà bellissimo. Simone, un abbraccio, a martedì prossimo. Ciao a tutti! Tutta scena teatro su Radio Onda Rossa, spazio settimanale dedicato al teatro, spettacoli e mostre. Il martedì alle ore 14. I podcast di spettacoli e interviste sono disponibili sul sito internet ondarossa.info alla voce trasmissioni.